see if any questions concerning the practice, just any confusions or something. Cominciamo a vedere se ci sono delle domande riguardo alla pratica o delle confusioni. Sì. Le sensazioni all'addome io le sento ogni volta diverse, a volte grossolane, a volte sottili, a volte faccio fatica a sentirle, a volte le sento sempre allo stesso modo, sono molto variabili, cambiano ogni volta. Non so se questo. So his sensations in the abdomen are always different. Sometimes they're more subtle, more gross, or they're ever changing. So yes, he's asking if it's normal. No, that's pretty usual. Sì, è abbastanza usuale. Yeah, yeah. Remember, the breath and our emotional life are very interconnected. Ricorda che il respiro e la nostra vita emotiva sono molto interconnessi. So as we become calmer, the breath becomes calmer. Man mano che ci calmiamo, anche il respiro diventa più calmo. So the normal progress is that we start with a very obvious breath. Il progresso normale è che noi cominciamo con un respiro molto ovvio. Yes, obvious. And then as the concentration grows. Man mano che cresce la concentrazione. The mind, of course, is beginning to stop. La mente comincia a fermarsi. And the heart begins to calm. Il cuore si calma. So the body begins to relate to the mind by calming down. Il corpo si relaziona alla mente calmandosi. Now, as the breath begins to calm down, it becomes more subtle. Man mano che il respiro si calma diventa più sottile. And it becomes sometimes very difficult to contact it. E a volte diventa molto difficile contattarlo. And sometimes you can't. Sometimes you seem to have lost it. E a volte proprio non ci si riesce, sembra di averlo perso. So what's happened there is that the body has now gone in front of the mind. E quello che è successo a questo punto è che il corpo è come se fosse passato davanti alla mente. The body has relaxed so much. But the concentration has not grown with the relaxation. Quindi il corpo si è rilassato molto, ma la concentrazione non è cresciuta come il corpo. La mente non è cresciuta come il corpo. Sometimes this last part was the mind didn't grow as much as the mind did not become as calm, say, as the body. Sì, sì. Quindi la mente è come se seguisse il corpo, quindi non si è calmata quanto il corpo. Sì. Now there's a problem for the meditator, you see. E qui sorge un problema per il meditante. Do we stay where we know the breath is and wait until the calmness and concentration come? Quindi rimaniamo lì dove sappiamo che si trova il respiro e aspettiamo che arrivi la calma e la concentrazione? Do we help our contact with the mind, with the body, by putting our hands on the stomach and feeling it? Aiutiamo il nostro contatto col corpo mettendo per esempio la mano sull'addome per cercare di sentire il respiro. Or do we go to say three touch points, the two knees and the hands? Oppure andiamo ai tre punti di contatto, per esempio le ginocchia, le mani. So you feel it. Quindi si sente. And then you feel. Quindi si sente il ginocchio sinistro, poi il destro. And you feel. Si sentono le due mani a contatto. Very slowly. And so the mind is slowly becoming more and more concentrated. E questo molto lentamente, in modo che la mente si concentri. And then the breath, we contact the breath again. E poi andiamo a ricontattare nuovamente il respiro. So in this way, the mind and the body tumble after each other deeper and deeper. In questo modo è come se la mente e il corpo si inseguissero uno dopo l'altro a dei livelli sempre più profondi. Cambiando oggetto, si change the object. No, the object remains the breath, except when you lose contact, then you might try the knees and the hands. Sì. L'oggetto sempre respira, ma quando si perde il contatto, allora uno può provare a contattare la sensazione nelle ginocchia, o di contatto nelle ginocchia e mani. You have to do it very calmly, because if you do it too fast, the mind wakens up. bisogna farlo molto tranquillamente, molto lentamente, perché se lo si fa troppo velocemente la mente si sveglia. Ah. And remember, the reason why we use neutral sensations is because then this concentration in the mind becomes a quality of the mind itself, not dependent on the object. Quindi usiamo queste sensazioni neutre perché la concentrazione diventa una qualità della mente e non dipenderà dall'oggetto. It's very easy to become concentrated on a good film. È molto facile sviluppare la concentrazione, per esempio, su un bel film. Anything that excites us, we very quickly absorb into it. Qualunque cosa che ci emozioni, allora facilmente noi ci assorbiamo in esso. But this concentration is very weak. Ma questa è una concentrazione molto labile. Because as soon as you put it onto a neutral sensation, it gets bored. Appena la si mette su una sensazione neutra, questa concentrazione, allora la mente si annoia. And with that process, what we're doing is actually refining our idea of joy. In realtà quello che stiamo facendo è raffinare sempre di più la nostra idea di gioia. Usually joy for us is something exciting. Di solito la gioia per noi viene con qualcosa di eccitante. But as we become more emozionante, si deve dire in italiano. Sì, but as we become more refined, it's the very subtle joy of silence that grows us. Ma man mano che diventiamo, che la mente diventa più sottile, è questa gioia legata al silenzio che in qualche modo ci gratifica. So you can always tell a good monastery by how much noise is going on. Si riesce a riconoscere un buon monastero dalla quantità di rumore che si sente. Yeah. And remember, all monastic traditions live in silence. E ricordate che tutte le tradizioni monastiche vivono nel silenzio. The ultimate silence is Nibbana. Il massimo del silenzio, diciamo, è il Nibbana. Durante la meditazione camminata, se c'è un rumore che ci distoglie l'attenzione o comunque i pensieri, dobbiamo fermare la camminata e poi riprenderla, o cosa dobbiamo fare? So if there's a noise during the walking meditation, should we stop and pay attention to the noise, or should we continue? I think walking meditation is usually taught as a way also of developing concentration. Di solito la meditazione camminata viene insegnata come modo per sviluppare la concentrazione. So it's, although we notice the sounds, it's better just to keep the attention steady on the footstep. Anche se notiamo i suoni, però è meglio tenere l'attenzione stabile sul passo. If the sound is so large and we find ourselves becoming annoyed by it, then we note annoyance. Se il rumore è molto forte, ci accorgiamo che ci disturba in qualche modo, allora noi notiamo questo disturbo, diciamo, fastidio. Fastidio, irritazione. Aveva chiesto anche il pensiero. Thoughts. Hai detto anche il pensiero? Ah, sì. Scusami, non lo so. Yeah. Also with thoughts, just ignore, come back. Anche quei pensieri, ignorali e ritorna. But I'll be speaking about that in a minute with the hindrances. Ma tra un attimo, quando parleremo degli ostacoli, toccherò anche su questo. Volevo sapere se per ricontattare la pancia quando si perde il respiro si può fare anche lo scanner. You can also scan the body. Si può anche fare questo scanning del corpo, un body scan, molto lentamente. Neutral field. Did you say neutral feelings. Sì, per le sensazioni neutre. Io volevo capire se è normale quello che mi capita. Sto soffrendo molto, è per me il mio primo ritiro. E, ho l'impressione che di essere in un roba pigra, per cui come se contattassi costantemente la dimensione della morte e della vita, e quindi la paura, il dolore, eccetera, eccetera. Mi placo quando ho l'impressione di entrare in contatto con la dimensione del non sé. Ok, so this is the first retreat. Mi chiedevo se è intensivo in realtà, cioè. She's suffering a lot and she feels that she's like in a loop and touching the meaning of life and of death, basically running after each other. And she can find some relief only when she touches on the dimension of non-self. But she's wondering if this is a form of defense, so as not to contact maybe some deeper, more painful feelings. The Buddha says we have three desires. Buddha dice che abbiamo tre desideri. The desire for sensual pleasure. Il desiderio per i piaceri sensoriali. The desire always to become. Il desiderio del divenire continuamente. To become somebody, every moment, every day, to become somebody. Di diventare qualcuno, ogni giorno, ogni attimo. But also we have a desire to get rid of ourselves. Ma abbiamo anche un desiderio di liberarci di noi stessi. Yeah. Liberarci nel senso di sbarazzarci di noi stessi, yes. Eliminarci. Again, I shall be mentioning this a little later. So ne parlerò tra un po'. Yeah. So when things get tough, we have various ways of getting rid of ourselves. E quindi quando le cose diventano difficili, abbiamo vari modi per liberarci di noi stessi. We can go to sleep for a while. Possiamo andare a dormire per un po'. We can get drunk. Possiamo ubriacarci. Which is the best. Che è la cosa migliore, il modo migliore. As I remember. Per quanto posso ricordare. It's the most efficacious. Il più efficace. And of course, at worst, suicide. E poi ovviamente la cosa peggiore è il suicidio. So, whenever we hit, whenever suffering comes greatly, obviously we just want to get away from it. Quindi ovviamente quando la sofferenza si presenta in modo forte, noi vogliamo allontanarci il più possibile, il più in fretta possibile. Yeah. And so, the quality of not self is seen almost as an annihilation. Quindi questa qualità del non sé viene vista quasi come un annichilimento. Yeah. Which would not be the right understanding. Che però corrisponde alla non giusta comprensione. So when I mean all of us will have to face this sort of suffering at some point. Ma tutti noi dovremmo affrontare questo tipo di sofferenza prima o poi. And we could say that our practice is the preparation for death. E potremmo dire che la nostra pratica è una preparazione alla morte. The whole of the spiritual life is concerned with renunciation. Tutta la via spirituale ha a che vedere con la rinuncia. This is not the same, remember, as mortification. We're not trying to make ourselves suffer. Ma questo non ha nulla a che vedere con la mortificazione, cioè non stiamo cercando di farci soffrire. It's the suffering of letting go. È la sofferenza del lasciare andare. Però non finisce mai. Ma c'è speranza. Sì, sì, c'è. Quando moriamo. C'è, c'è. I'm translating from that. There's no end to it. No, the Buddha says absolutely that is an end. Ah, il Buddha dice assolutamente c'è. The answer lies in the suffering. La risposta si trova proprio nella sofferenza. The end of suffering is within the suffering itself, not outside it. La fine della sofferenza si trova proprio dentro la sofferenza, non fuori. seems that my mind is in the state that he described since years. La mia testa è nello stato che ha descritto lui da anni. Always losing the breath in the place where I look for it. And I think I'm lazy because I know about the touch points, but I don't want to look for them. Perché perdo sempre il respiro nel posto dove lo vado a cercare, però penso di essere un po' pigro perché so della cosa dei touch points, però non li voglio andare a cercare. And also because I fear to lose the concentration, because if I'm one pointed and then I become three pointed, I fear to lose the concentration, but actually I lose it not doing that. Yeah. Ho paura di perdere la concentrazione su un punto perché mi devo spostare su più punti e allora ho paura di perdere questa concentrazione, però in realtà in questo modo così non c'è nessuna nell'altra. Sì. Sì. Concentration it does not necessarily have to be on one object, you see. La concentrazione non necessariamente deve essere focalizzata su un oggetto. It just means that the attention is going one way. Significa semplicemente che l'attenzione va in una direzione. It's going one way to this knee, one way to that knee, one way to the knee. Quindi va in una direzione su questo ginocchio, in una direzione sull'altro ginocchio, in una direzione sulle mani. In Jack Kornfield's book, which was called Living Buddhist Masters. Il libro di Jack Kornfield, che in italiano è tradotto come I maestri viventi, maestri buddhisti viventi, penso. Maybe yeah. Now they're all dead. Well, he had to change the name of the book because ha dovuto cambiare il nome del libro. Only one or two still live. Ce ne sono solo più uno o due ancora vivi. There's one particular person in there called what's going on in my mind? A very fierce monk. The one did the heavy breathing. Sunlun, thank you. Sunlun Sayadaw. He became fully enlightened, and they say you can still see his body, it preserves itself. Quindi viene raccontata la storia di questo maestro, appunto, che era pienamente illuminato, si dice Sun Lung Sayado, e pare che ci sia ancora il suo corpo, perché è rimasto ancora intatto. That's not a necessary sign of somebody who's enlightened. Che questo non è un segno essenziale, diciamo, necessario, che dimostra che una persona è stata, ha raggiunto la piena illuminazione. Now, it is said that he became fully enlightened within 2 months or something. E si dice che lui ha raggiunto la piena illuminazione nell'arco di 2 mesi. And his system was very fierce. E aveva questo sistema molto feroce, in italiano, molto, molto duro, diciamo. Yes. And when he was asked, you know, why is it that people don't become fully liberated? Why is it? E quando le persone gli hanno chiesto, ma come mai le persone non riescono a raggiungere la piena liberazione? Because they're lazy. E lui diceva, perché sono pigre. True. Lazy. Very good. Come on, somebody. Saluti. Quello che mi succede quando, diciamo, perdo il contatto con l'addome, arriva degli oggetti della mente, dei contenuti della mente, per me sono sempre ricordi, sempre. Cioè sia qui, quando faccio una pratica intensa, che a casa, non mi vengono progetti o per esempio non mi viene da interessarmi a un altro. Per me è solo proprio una sorta di film che io poi analizzo, se non sento niente lascio passare, se sento sto sul sentimento, Però quello che mi colpisce è che la mia mente proietta quasi esclusivamente ricordi. So when she loses touch with the rising falling, what her mind produces, her mind objects, are always made up of memories. It's like a flow of memories, like a film projecting in her mind, and she's surprised by that. Sometimes she analyzes them and gets lost in them, other times she goes back to her rising falling. Do you, when the memory comes, do you put the memory aside and get in touch with what the feeling is? I do. Then this is what has to exhaust itself. Okay. So when we think of the past, it could be something exciting, it could be something that saddens us, it could be nostalgia, you know, all these feelings that we have about the past. Ok, quindi l'ha chiesto se quando sorgono questi ricordi si entra in contatto con l'emozione collegata, e Rosana ha detto di sì, dice che a volte i ricordi hanno sempre un'emozione, comunque può essere un ricordo eccitante oppure triste o una nostalgia, per esempio. So we allow the heart to manifest its we let the heart speak to us in feelings. E quindi noi permettiamo al cuore di parlarci attraverso queste sensazioni. Yeah. And you have to remember that if the mind wanders, it's developing this particular mental state. Quindi ricordatevi che se la mente divaga, sta proprio sviluppando questo particolare stato mentale. So for some people it's all about planning for the future. Per alcune persone è tutto un programmare per il futuro. Some people even plan to live in the now. Altre persone riescono a programmare di vivere nel qui e ora. Bene. So we have to just we have to go through these five hindrances. Dobbiamo proprio parleremo di questi cinque ostacoli. For those who are new, of course, it's important to know what they are and so on. Per quelli che sono nuovi alla pratica, ovviamente è importante sapere di cosa si tratta. And for the rest of us, it's just good to remind ourselves. E per gli altri che già li conoscono, è sempre bene comunque ricordarci. Yeah. So we have all those hindrances that excite the mind. Quindi abbiamo tutti questi questi ostacoli che stimolano, eccitano la mente. And there are those which take us into oblivion, sleep. E ci sono quelli che invece ci portano a uno stato di oblio, di sonnolenza, tutto fuori. So the five types are those to do with pleasant desires. Quindi i cinque sono nella prima categoria, cioè tutti i piaceri sensoriali. And then there's all those things that are aversion, fear, things like that. Tutti quelli collegati con l'avversione, la paura, la rabbia, eccetera. Then there's this dullness and lethargy. E poi il terzo ostacolo è questo stato letargico e un po' annebbiato della mente. Then there's a section on restlessness, which is sort of anything left over. E poi c'è un gruppo, diciamo, che va sotto la categoria dell'irrequietezza e comprende tutto quello che è avanzato. But it also contains guilt and shame and remorse. Ma però comprende anche il senso di colpa, la vergogna, il rimorso. And then finally, doubt. E poi alla fine l'ultimo è il dubbio. Mm. And so what the Buddha has done for us, he's given us a way of looking at all the impurities within our hearts. Quindi quello che ha fatto il Buddha è che ci ha dato un modo per guardare tutte le impurità che abbiamo nel cuore. Mm. And he gives us various techniques in a way to deal with them. E ci dà una serie di tecniche, dei modi per affrontarli. Mm. So when it comes to all the things that excite us, all the things that excite us. Allora, per quanto riguarda le persone che le cose, gli oggetti che ci eccitano. Things like gluttony, avarice, lust. Oh, there's lots of them. Per esempio, la golosità, la l'avarizia, il desiderio sensoriale. So there's lots of things, especially in our modern society, which is there just to keep us nicely excited. E ci sono tante cose nella nostra società moderna che sono lì proprio per tenerci in uno stato di eccitazione. And when these come up in our meditation, of course, they create these inner films, these inner simulations. E quando appaiono nella nostra meditazione, ovviamente creano questi film interni, queste simulazioni. Mm. But it also includes things like, you know, remembering past events that make us happy. Ma no, questo comprende anche il ricordare degli eventi passati che ci hanno reso felici. Mm. So it's anything which raises a happiness within us. E quindi qualunque cosa che fa sorgere dentro di noi uno stato così di felicità. Mm, but remember that this happiness is always dependent on something. Ma ricordatevi che questa è una felicità che dipende sempre da qualcos'altro. And some of them are unwholesome, you know, like avarice, and some of them are not so unwholesome, you know. Alcune di queste cose, questi stati sono non salutari, come l'avarizia, per esempio, altri lo sono meno. Some are wholesome, but the mind thinks about it. Alcune sono salutari, ma la mente continua a pensarci su. Romance, wonderful. Per esempio, una storia d'amore, bellissima. Saving the world. Oppure il voler salvare il mondo. Creating a great charity. Creare un istituto di beneficenza. You see, the mind is full of wonderful projects. Ma veramente è piena di questi meravigliosi progetti. Driven by the good heart. E sono ovviamente spinti da un buon cuore. And of course, all the things that we have in our society always begins within the mind, somebody's mind. Ovviamente tutte le cose che noi abbiamo nella società cominciano dalla mente di qualcuno. All these cars and televisions and technology began somewhere in somebody's head. Queste macchine, la tecnologia, sono tutte cose che sono iniziate nella mente di qualcuno. But unfortunately, no matter how wonderful the charity, how amazing the invention, it does not lead to liberation from suffering. Sfortunatamente, per quanto possa essere incredibile l'invenzione o buona questa idea di beneficenza, queste cose però non portano alla liberazione. No, it creates even more attachment to this life. Anzi, creano ancora più attaccamento a questa vita. So, when we see these things drawing us into these fantasies, we're not concerned with the subject matter. Quindi quando vediamo queste cose che ci spingono o ci conducono ad una fantasia, un'immaginazione, noi non siamo veramente interessati con l'argomento in sé. But with the feeling. Ma più con la sensazione. Mm, the excitement in the heart, its desires. Questa eccitazione nel cuore, con questo desiderio. And this is where we stay. E quindi noi rimaniamo lì. And we allow this agitation in the heart to manifest itself. E permettiamo questa agitazione nel cuore di manifestarsi. And eventually it exhausts itself. E prima o poi si esaurisce. And in this way that conditioning becomes less and less powerful. E in questo modo quel condizionamento diventa sempre meno potente. Ah. So one thing we realize is that these mental states develop themselves through thought and imagination. Quello che scopriamo è che questi stati mentali si sviluppano attraverso i pensieri e le immagini o l'immaginazione. Mm. So this makes us very wary of what the mind is doing, not just in meditation, but in ordinary daily life. Wary, beware. Ah, yes. Questo ci fa stare molto attenti a quello che succede nella nostra mente, non solo meditazione, ma anche nella vita quotidiana. Then there are all those things which are negative within us. E poi ci sono tutte quelle cose che sono negative dentro di noi. So, depression, the fears, the anxiety, the stress, la depressione, la paura, l'ansia, lo stress. The anger, the hatred, the jealousies, all the... L'odio, la rabbia, la gelosia. Mm. All these things will try to express themselves in thoughts. Tutte queste cose cercheranno di esprimersi attraverso dei pensieri. Paradoxically, for our own benefit. Paradossalmente questo succede per il nostro beneficio. So when I'm depressed, I say, I am so depressed. Quando ci si sente depressi, si dice, ah, io sono così depresso. And there's a little bit of comfort there. E qui c'è un po' di sollievo. Now I'm depressed, I want to get more depressed. Adesso che sono depresso, voglio diventare ancora più depresso. It's like we drive ourselves into a hole by thinking about it. È come se noi ci affossassimo sempre di più in un buco pensandoci, andassimo sempre più a fondo. I remember a comical sketch by a comedian. E mi ricordo uno sketch comico da un non comico appunto. And he's on London Bridge and he's going to jump off into the river. Quindi è sul ponte di Londra e sta per buttarsi nel fiume. And the policeman sees him and goes up to him and they have a discussion about life and the policeman's trying to stop him from killing himself. E allora arriva un poliziotto e cominciano a discutere, fanno una conversazione sulla vita e il poliziotto cerca di convincerlo a non uccidersi, non buttarsi. But by the end of the conversation, they both jump. Alla fine della conversazione si buttano tutti e due. So you can see how we drive ourselves into despair. We do it ourselves. Eh? Quindi vedete come noi stessi ci portiamo alla disperazione. So, again, with all these negative mental states, it's always the same understanding. It's the mind, it's thinking and imagining which is making it worse and worse and worse. Quindi anche con questi stati mentali negativi vedete che è la mente che li produce, il pensiero, sono le immaginazioni che rendono la situazione sempre peggiore. Now, the point where the indulgence begins is actually a point of identification. Dov'è che comincia questo indulgere in questi stati negativi? È il punto dell'identificazione. And we shall go into this more deeply when we discuss dependent origination, the psychology of the Buddha. E ne parleremo meglio quando affronteremo il tema dell'originazione interdipendente, la filosofia del Buddha, o la psicologia. As soon as we come out of that identity with the dream, quindi appena usciamo da questa identificazione, questa identità con il sogno, the dream stops. Il sogno si interrompe. And that's when we note it. Ed è lì che cominciamo a notarlo. Sì. So the mind needs very much our complete absorption in order to run a film. La mente ha bisogno del nostro assorbimento totale per poter far scorrere questo film. Because in Buddhist understanding you can only have one moment of consciousness at one time. Perché one moment of cognition at one time. Secondo il pensiero buddista noi possiamo avere solo un attimo di cognizione alla volta. So in other words, you can only be dreaming or not be dreaming. You can't have both. In altre parole, possiamo o essere in uno stato sognante oppure no, non ci possono essere le due cose. So as soon as we come out of the dream and we go into the heart and feel it, you see, it's we have disidentified with the thought pattern. Appena usciamo dal sogno ci contattiamo con la sensazione nel cuore, è come se ci siamo disidentificati, siamo usciti da questo schema di pensiero. And we have now re-identified as the observer, the feeler. E quindi ci siamo riidentificati con l'osservatore, con colui o colei che sente. And now, because this energy from the heart cannot find an escape through the mind, it comes out through the body. E siccome questa energia nel cuore non può uscire attraverso la mente, si manifesta, si esprime nel corpo. And if you see all these emotions, you see, one question you can ask yourself is, what is an emotion before I give it a name? E quindi se ci consideriamo queste emozioni, possiamo farci questa domanda. Che cos'è un'emozione prima che io gli dia un nome? Ah, sì. So, I don't know whether I've explained how we go into pain. Have I done that? No? No. Non ho ancora spiegato com'è che entriamo nel dolore. No? If you have pain in the knee, you see... So as the mind, as the attention is drawn from the breath to the pain in the knee, we note pain. Per esempio, avete un dolore al ginocchio, allora l'attenzione praticamente esce dal si toglie, si allontana dal respiro e si dirige verso la sensazione, il ginocchio. So your noting word might be pain or discomfort. Quindi la parola, l'etichetta mentale che scegliamo può essere dolore o disagio. But the attention is on the sensations. Ma l'attenzione è sulle sensazioni. Ok. When I note pain, I can have the reaction to it of not wanting to be there. Quando noto il dolore, io posso avere la reazione del non volere essere lì. So there's your aversion. E questa è l'avversione. So I note that aversion. E noto l'avversione. And I feel it. E la sento. Okay. So now I have two feelings: the feeling in the knee and the feeling of not wanting to go there. E quindi adesso ho due sensazioni: quella nel ginocchio e quella del non voler andarci vicino. Mm. As I keep observing the knee, you see, and I become equanimous with it, then the reaction begins to fade away. Se continuo a osservare il ginocchio, la sensazione nel ginocchio, e divento e sviluppo equanimità, allora la mia reazione lentamente svanirà. Ah. So now I'm very clear that there are sensations that I am perceiving as pain. Adesso mi è molto chiaro che ci sono delle sensazioni che io percepisco come dolore. So now I go into the pain. E quindi adesso io entro nel dolore. Ah. And I find that that the sensations are not all one pain. E mi rendo conto che le sensazioni non sono un dolore. I might feel burnings and little pressures. Potrei sentire delle piccole sensazioni di bruciore o delle pressioni. Mm. Just as when we do the standing meditation, it just feels standing, but when I investigate, there's pressure, there's warmth, there's all sorts of feelings. Così come quando abbiamo fatto la meditazione in piedi, inizialmente sembrava semplicemente di stare in piedi, ma quando abbiamo indagato più da vicino abbiamo visto che c'erano altre sensazioni, la pressione, il calore, eccetera. Now, what happened to pain? Allora, cosa è successo adesso al dolore? Then my attention moves to the next level. Quindi la mia attenzione va a un livello successivo. Whereby I determine what is pleasant and unpleasant. Ed è il livello dove io determino o decido cosa è piacevole e cosa è spiacevole. And the word pain comes back. Allora a quel punto mi ritorna la parola dolore. So now we begin to realize pain is a mental construct. E quindi qui cominciamo a renderci conto che dolore è una costruzione mentale. What actually exists are these sensations of heat and pressure. Quello che veramente esiste sono queste sensazioni di calore e pressione. Now we do the same with emotions. Allora facciamo la stessa cosa con le emozioni. So I say to myself, oh, I'm feeling depressed. Allora io mi dico, mi sento depresso. So two big mistakes, I am depressed. Quindi, due grandi errori, io poi depresso. See? So when I, first of all, I distance myself from the depression, that's my first position and I say there's depression, not me, there. Certo, la prima cosa che faccio è prendere le distanze da questa emozione, diciamo, e dico c'è la depressione, non io sono depresso. And then when that is clear to myself and I have this equanimity, quando questo mi è chiaro e quindi ho questa equanimità. So remember, even when depression comes up, I might not want to see it, put my attention somewhere else. Ma ricordate, quando sorge la depressione potrei anche non volerla vedere, distrarmi, guardare da un'altra parte, mettere l'attenzione altrove. So then I go into the depression, the sensations that constitute depression. Invece entro nella depressione e cerco di capire le sensazioni che costituiscono la depressione. So again, I might just feel heaviness, pressure. Qui magari sento solo la pesantezza, la pressione. Sometimes a warmth. A volte un calore. See? And when I stay there, this turbulence now is very pure. It's not being distorted by mental concepts. E quando sono lì, questa turbolenza è molto pura, perché non viene disturbata da queste costruzioni mentali. And so the heart can release the energy. E il cuore può rilasciare l'energia, liberare l'energia. Now, in your meditation, you may actually have that experience so that it becomes very clear to you. Nella vostra meditazione potreste avere questa esperienza e quindi vi diventa molto chiaro. You might actually experience the depression disappearing and you're just left with a calm sense of joy. Potreste vedere come questa depressione sparisce e vi rimane una sensazione di gioia calma. You might find that your anxiety and your fear just begins to dissolve and express itself with a sense of love towards what you were actually afraid of. Potreste anche scoprire che questo senso di paura e di ansia si trasforma in un senso di amore proprio per quella cosa che inizialmente vi faceva temere. You might find that your depression is actually a sense of loneliness. Potreste scoprire che in realtà la vostra depressione è un senso di solitudine. And that we are reinforcing it by saying, I'm so lonely, well, I'm useless, how can anybody love me? Che noi lo stiamo solo rinforzando dicendo, mi sento tanto solo, è anche inutile, perché come potrebbero amare una persona come me? So, when we let go of all that and we sit with the sensation of loneliness. Quindi quando lasciamo andare tutto questo e rimaniamo solo con la sensazione della solitudine. It might be a feeling of darkness, a feeling of emptiness. Forse una sensazione di oscurità o di vuoto. As that begins to dissolve, we find ourselves in the opposite mode of solitude. This is hard in Italian to translate. Solitudine. Quando comunque lasciamo andare tutto questo, quando tutto questo si dissolve, potremo trovarci in una modalità opposta, che è quella della solitudine. Ma in inglese ci sono due termini, uno negativo e uno positivo. Quindi si trasforma in una solitudine positiva. Isolamento, solitudine. No, in inglese c'è loneliness, che è solitudine negativa, e solitude, che invece è quello che si ricerca per stare bene. Cioè, una è una scelta, mentre l'altra è una cosa subita. Yes, they're asking the difference between loneliness and solitude, because in Italian we only have one word. Fancy. Does that mean Italians don't experience solitude? Il Bante chiede, allora questo vuol dire che gli italiani non hanno questa esperienza di solitudine. Ma l'anno scorso gli avevamo dato un nome che era solitudine abitata. Abitata. Does that make sense? Abitata. She remembers from last year. Okay. It's being with yourself in a complete whole way, not needing anybody else. È uno stare con se stessi in un modo totale, completo, senza aver bisogno di altri. What we see in this process is that the negative states transform into their opposites naturally. Quello che vediamo in questo processo è che gli stati negativi si trasformano in maniera naturale nel loro opposto. Yeah. We don't even have to try. Non dobbiamo neanche provare. Yeah. In Zen they will say, with wisdom, compassion arises naturally. Nello Zen dicono che con la saggezza la compassione sorge naturalmente. Yeah. So now we come to we'll skip the dullness and lethargy. We go to restlessness. Quindi adesso saltiamo il terzo ostacolo e andiamo alla irrequietezza. So restlessness can be the mind, just energy in the mind, thinking stupid things over and over again. Quindi l'irrequietezza può essere questa energia nella mente, il fatto che continuiamo a pensare a cose abbastanza stupide e irrilevanti. So remember, just think from the moment you get up to the moment you fall asleep. Does your mind ever stop? Quindi pensate, dal momento in cui vi svegliate al mattino al momento in cui andate a dormire, la vostra mente si ferma mai? So what hope is there when we come here to sit? Che speranza abbiamo quando poi veniamo a sedersi qua? So our effort is to wake up, no wandering mind, and just keep coming back to the breath. Il nostro sforzo è quello di svegliarci, notare la mente che divaga e tornare al nostro respiro. And just wait patiently and the energy will exhaust itself. E quindi aspettare pazientemente, questa energia si esaurirà da sola. And it's the same with the body. Sometimes we feel very restless in the body. A volte è la stessa cosa con il corpo, ci sentiamo molto irrequieti nel corpo. So one technique which is useful there is this scanning the body up and down very slowly. È una delle tecniche che qui è molto utile, è questo questo ripassare il corpo con l'attenzione, scorrere il corpo con l'attenzione. Yeah. And to stay where you feel the restlessness most. E rimanere con l'attenzione laddove sentiamo maggiormente l'irrequietezza. And again, just patience. See, patience, the willingness to bear. E di nuovo la pazienza, questa disponibilità a sopportare. Patient forbearance. Una sopportazione paziente. The Buddha says this is the greatest ascetic practice. Il Buddha ha detto che questa era virtue, the greatest ascetic virtue. È la virtù ascetica più importante, principale. Principale, sì. And then it's the same thing with guilt and shame and remorse. All these, we feel it, you see. Come off the gleams, just feel them. E questo vale anche per il senso di colpa, il rimorso, la vergogna. Bisogna uscire dal sogno e sentirlo, percepirlo. And with things like that, it may be that in your daily life you have to make some sort of reparation, you see. Cose di questo genere può darsi che nella vostra vita quotidiana voi dovrete fare una sorta di un atto riparatorio. In order to put an end to it. Per poter porre una fine. Because it'll keep disturbing the mind, you see. Perché sennò continuerà a disturbare la mente. Yes. This one biscuit business. Questa questione del un biscotto. At the center Satipanya, there was a woman there who could not resist. C'era una donna lì al centro Satipanya che non riusciva a resistere. And she finally confessed to me that she had 8 biscuits. E mi ha confessato alla fine che lei aveva preso 8 biscotti. And she said her mind was going round and round until she confessed. Ha detto che questa cosa continuava a rigirarla nella mente fino a quando non ha confessato. Dullness and lethargy. Quindi torniamo indietro all'altro ostacolo, cioè questa mente opaca, diciamo, letargica. So we have to remember that these are negative. Energies which are just as strong as restlessness. Queste sono energie negative che sono tanto forti quanto l'irrequietezza. Just as these restless energies swing us out into a whirlwind. È proprio come queste, come l'energia dell'irrequietezza ci fa girare come se fossimo in un mulinello. Sloth and torpor are energies which take us down like a whirlpool into oblivion. E quindi questa pigrizia e il torpore, anche queste ci fanno girare, ma come se fossimo, dunque no, allora il mulinello è quello che va giù in basso, nell'acqua. Invece prima ci portavano in alto come una tromba d'aria, un vortice. These are real energies. Quindi sono vere energie. And we have to do our best to remain awake and feel them, allow them to escape in consciousness. Escape in consciousness. Yeah, you have to be aware of them. Escape in consciousness. Quindi dobbiamo esserne consapevoli e fare in modo che loro possano fuggire nella coscienza. This is one of the other things that we come to realize, that the heart cannot purify itself except through consciousness. E questa è un'altra cosa di cui ci rendiamo conto, cioè il cuore non può purificarsi se non attraverso la coscienza. And it will either come out as an emotion or a mental state. Quindi verrà fuori o come un'emozione o uno stato mentale. Or a physical state, an illness. Oppure uno stato fisico, una malattia. These are real energies in the body. Sono vere energie nel corpo. So just consider how many times the alarm has gone and you keep pressing the snooze button. Considerate quante volte scatta la sveglia e voi continuate a schiacciare il pulsante dello snooze, che non so come si dice in italiano, la pausa, che poi risuona di nuovo dopo 5 minuti, 10 minuti. And how finally you turn it off and just go back to sleep anyway. E quante volte semplicemente la spegniamo, la sveglia, e torniamo a dormire. How we say to ourselves, well it's Sunday morning, so I'll just stay in bed. E quante volte ci diciamo, beh, domenica mattina possiamo stare a letto. Or how we come home and we feel just a little depressed, a bit tired, so we throw ourselves onto the couch and disappear for a while. Oppure quando torniamo a casa stanchi, stressati, depressi, ci buttiamo sul divano e ci addormentiamo. So this is different from taking what is known as a power nap. E questo è diverso da quando facciamo un cosiddetto pisolino rinvigorente, diciamo. And definitely different from siesta. Ed è decisamente diverso dalla siesta. So, we need sleep, we need rest, that's not the problem. Abbiamo bisogno di dormire, abbiamo bisogno di riposarci, quindi non è questo il problema. It's when we indulge in sleep, especially that light sleep where we can feel quite subliminally happy. E quando noi indulgiamo nel dormire, soprattutto quando siamo in quello stato così un po' addormentato, leggermente piacevole, insomma, quando ci sentiamo un po' felici. Just underneath. Appena sotto la soglia del sonno. Or when we go to sleep in order to suppress what we don't want to experience. Oppure quando andiamo a dormire perché vogliamo reprimere ciò che non vogliamo provare. Tomorrow is the third day, so there is maybe still some real tiredness there. Domani è il terzo giorno, può darsi che ci sia ancora in voi un po' di vera stanchezza. But after the fourth, especially after the fifth day, if we've had a good night's sleep, all else must be noted as dullness and lethargy. Ma dal quarto o dal quinto giorno, se avete dormito bene la notte, se appare questa sonnolenza, va notata come questo torpore o letargia. And if it gets, you know, you have to make the effort to sit up, open the eyes, stand up, there's no problem standing up. Quindi dovete fare lo sforzo di sedervi dritti, riaprire gli occhi o alzarvi in piedi, non c'è nessun problema ad alzarvi in piedi. And this is also where walking meditation is useful. E qui si rivela molto utile la camminata. So you walk with the dullness and lethargy. Don't worry about the feet, you just stay with that feeling, just keep walking up and down. Quindi camminate con questo torpore, questo stato letargico, non vi preoccupate del passo, semplicemente sentitelo, percepitelo. And if you feel very restless, it's the same. Walk slowly up and down, stay with the feelings of restlessness. E questo vale anche per l'irrequietezza. Se vi sentite irrequieti, camminate con l'irrequietezza. Sentite cosa, come si manifesta nel corpo. Okay. And then finally, there's doubt. E alla fine c'è il dubbio. So this is what is skeptical doubt. Quindi questo è il dubbio scettico. This is not the doubt of wonder. Non è il dubbio legato al mistero, diciamo, al chiedersi perché delle cose. Yeah, the Buddha doesn't want us to believe anything. He wants us to ask, well, is this true for me? Il Buddha non vuole che crediamo a tutto ciecamente, vuole che ci chiediamo, ma questo è vero per me? So he says there's an end of suffering. So is this true for me or is it just he was lucky? Dice c'è una fine alla sofferenza, ma questo è vero anche per me o è semplicemente che lui era fortunato? But skeptical doubt always comes from fear. Ma il dubbio scettico nasce sempre dalla paura. Fear and aversion. E l'avversione. And what it does is it stops you practicing. E quindi questo dubbio scettico cosa fa? Ci impedisce di praticare. So obviously because you're practicing, you're not suffering from skeptical doubt. Ovviamente siccome voi state praticando, non state soffrendo dal dubbio scettico. But for people who suffer this a great deal, it becomes a real blocking mechanism in their lives. Ma per le persone che soffrono di questo dubbio scettico diventa un meccanismo che li blocca nella loro vita quotidiana. See, so they apply for a job and then they have doubt. Not good enough, maybe good enough, you know. Magari fanno una domanda, presentano una domanda di lavoro, poi cominciano a dubitare, ma sarà buono, non sarà buono. Maybe they're afraid of failure, afraid of being judged. Magari hanno paura del fallimento, paura di essere giudicati. So they lose the job. E così perdono il lavoro. Same with relationships. You find somebody whom you're very attracted to. La stessa cosa con le relazioni. Magari trovate qualcuno a cui siete molto attratti. Should I not? Maybe. Dovrei o forse no. So they go find somebody else. E allora se la persona che ci interessa va e si trova qualcun altro. So again, it's always the same thing. As soon as you feel the doubt, stop the mind from thinking. You see, this is not suppressing, it's not repressing anything. E quindi è sempre la stessa cosa, cioè quando sentiamo che c'è questo ostacolo del dubbio scettico, facciamo in modo che la mente smetta di pensare, di immaginare. Questo non è reprimere. You have to be clear about that. You're not suppressing anything by stopping the mind. Questo deve essere molto chiaro. Non state reprimendo nulla se fermate la mente. Right. You have to be in contact with the heart because that's the engine. Dovete essere in contatto con il cuore perché quello è il motore. Right. And so long as you're allowing the heart to express itself as feeling, it's healing itself. E se permettete al cuore di esprimersi come sensazione, allora è come se si stesse guarendo da sé. So, you know, we've just run through these five obstacles, you know. Quindi abbiamo parlato di questi cinque ostacoli. All those things that we desire, all those things that we don't like, we hate. Tutte le cose che desideriamo, le cose che non ci piacciono, che odiamo. Dullness and lethargy. Questo torpore, letargia. Restlessness, guilt, shame, remorse. L'irrequietezza, senso di colpa, il rimorso. And this skeptical doubt. E questo dubbio scettico. I think you'll see that any negative, any unwholesome mental state can be fitted into one of these categories. Penso che riuscirete a riconoscere che qualunque stato mentale negativo può essere inserito in una di queste cinque categorie. And the whole of the Buddha's teaching is concerned with allowing us to see things very clearly so that we can see a way out of suffering. Vedete che tutti gli insegnamenti del Buddha sono mirati a permetterci di vedere tutto ciò molto chiaramente per poter trovare una via d'uscita. So I can only hope my words have been of some assistance. Posso solo sperare che le mie parole siano state di qualche aiuto. That by your devoted endeavors, con i vostri sforzi devoti, you will find a way out of suffering sooner rather than later. Troverete una via d'uscita dalla sofferenza prima piuttosto che poi.